Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Guarda Chiara, che con il primo servizio devi dire anche tu, come sì, andavano le cose. Porterò la mia esperienza. Porti la tua esperienza. Che non è in controtendenza. Benvenuti a Mebius, incominciamo subito, ma prima ci sono i titoli, come sempre. Perché i bambini italiani non vanno a scuola da soli? Solo il 7% non è accompagnato dai genitori. Negli altri paesi europei la situazione è capovolta. Vedere attraverso le fiamme è possibile grazie all'olografia digitale. È una nuova tecnica italiana che permette di individuare il movimento attraverso il fuoco. Sono tanti i problemi medici e psicologici connessi al cibo. E certamente molto dipende da come ci appare, da come lo vediamo. Un progetto triestino vuole capire meglio come guardiamo il cibo. 2 milioni di dollari. Tanto costano i caschi per i piloti degli F-35. Le ragioni di una cifra così elevata. Allora, tu andavi a scuola accompagnato? Io dall'ultima delle elementari fino a tutte le medie andavo da solo. Io devo dire la verità, mio papà mi ha sempre, quasi sempre accompagnato sia alle elementari che alle medie in auto, in auto, anche se l'abitazione non era tantissimo distante. Questo è il casus di cui vogliamo discutere, perché cos'è? È una nostra specialità in Europa, mi pare. Sì, allora siamo abbastanza gli unici, devo Eccola dire che io sono qua. Assolutamente in linea con la media nazionale. Perché il CNR ha fatto uno studio in collaborazione, adesso sentiremo, con gli altri paesi europei, quindi uno studio che si può molto ben confrontare, ed è venuto fuori insomma che i nostri ragazzi dai 7 anni ai 14, quindi fino alle medie, sono un po' pigri, o meglio i genitori sono un po' apprensivi, quindi li accompagnano fin dentro con l'aula con l'auto. Allora sentiamo una delle ricercatrici che ha eseguito lo studio nel nostro paese, che è Daniela Renzi. Buonasera. Buonasera. Buonasera Renzi. Ecco, lei lavora all'istituto, è ricercatrice dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma. Esatto. E avete un po' coordinato la parte nazionale di questo studio più ampio, per cui sì, appunto viene fuori che i ragazzi italiani sono così un po' poco autonomi. Non ve l'aspettavate alcuni di questi dati, fra l'altro? Allora, non ci aspettavamo l'abbassamento così radicale dei ragazzi della scuola secondaria, della scuola media. In realtà il livello di mobilità autonoma dei bambini era già crollato nel corso del tempo, già i dati del 2002 ci mostravano una percentuale dell'11% di mobilità autonoma di spostamento, che arriva in questa ricerca al 7%. Cioè 7 bambini su 100 vanno a scuola da soli, tutti, esatto, gli altri vanno accompagnati in una, esatto, fascia di età tra le elementari e le medie. E stanno aumentando, esatto, gli accompagni. E stanno aumentando, esatto. E come, esatto, lo spieghiamo questo dato? Potrebbe essere per l'intensificarsi del traffico, maggiori automobili in giro, oppure una paura collettiva? Allora, diciamo che in Italia sicuramente il numero delle automobili è maggiore rispetto a tutti gli altri paesi europei, ecco, e questo sicuramente è un dato di fatto che va tenuto in considerazione. Il dato che noi riteniamo più discriminante rispetto agli altri paesi è sicuramente un atteggiamento di maggiore protezione da parte dei genitori nei confronti dei propri figli, quindi sicuramente genitori italiani più apprensivi e più preoccupati rispetto agli altri genitori europei. No, perché guardando un po' le statistiche del vostro proprio in soldoni, sembrerebbe che gli inglesi, insomma, quasi la metà vanno da soli, sì, i tedeschi il 40% vanno da soli, esatto, e addirittura al ritorno, che magari, ecco, un po' più complicato perché i genitori sono al lavoro, in Italia la situazione è la medesima, mentre addirittura in Germania 76 bambini su 100 tornano a casa da soli. Esatto. Sì, esatto. La mortalità infantile in Germania è normale, voglio dire, non è che lo fanno e però perdono 50 figli su 100, no? Quindi proprio le cose non tornano, è una questione culturale. È una questione culturale sicuramente, forse il dato di andata è più alto anche negli altri paesi perché probabilmente per questioni di comodità e di organizzazione familiari i bambini vengono comunque accompagnati, mentre invece per il ritorno probabilmente vengono lasciati più liberi, proprio perché il genitore magari sta ancora al lavoro e quindi non però lo va a prendere. Voi avete dati inquietanti anche terza media, cioè sì, proprio lì come siamo messi? Proprio... Sì, abbiamo comunque il 34% degli italiani contro il 68% dei tedeschi e il 78% degli inglesi. Ma niente, quindi insomma, stiamo parlando comunque di ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Questo potrebbe essere dovuto anche, ad esempio, all'inefficienza dei mezzi pubblici, perché a me vengono in mente i film inglesi, americani, in cui i genitori molto smart accompagnano giallo. I ragazzi all'autobus, allo scuola, bus giallo, la fermata davanti casa, e poi i bambini tranquillamente vengono portati a scuola. Sì. In Italia com'è che non funziona? Cioè ci sono le scuola non bus? C'è. Beh, qualche scuola bus c'è. Sì, diciamo che... Abbiamo comunque fatto una distinzione tra mezzo pubblico vero e proprio e scuolabus, perché comunque il mezzo pubblico rappresenta sicuramente un'occasione per allontanarsi anche dai luoghi abituali, quindi in Italia proprio c'è un'impossibilità da parte dei nostri bambini e ragazzi di usare il mezzo pubblico, è come se il mezzo pubblico venisse visto come un mezzo che allontana i bambini dall'ala protettiva del genitore, e sicuramente l'inefficienza del mezzo pubblico in Italia è abbastanza insomma evidente, quindi probabilmente questo spiega il divario. Ma una scusante qui, c'è. Sì, mi preme comunque sempre qui anche sottolineare secondo me la tendenza iperprotettiva dei genitori. Ah, certo. Che si manifesta anche in altre cose, no? Ci sono state anche altre indagini. Infatti esatto. nella vostra indagine prendete in considerazione magari altri termini oltre a questo dell'autonomia, dell'andare e tornare? Allora, noi diciamo che centriamo il discorso sull'autonomia in quanto riteniamo che la riduzione da parte dei bambini e dei ragazzi di oggi di vivere esperienze di autonomia, quindi non solo di spostamento nel percorso casa-scuola, ma anche di gioco, rappresenti un elemento che potrebbe andare a determinare anche diciamo disturbi di personalità e diciamo comportamentali durante l'adolescenza. Ma in che senso? Cioè giocano? Cioè. Giocano in che modo gli italiani? Gli italiani giocano, non hanno più diciamo la possibilità di vivere esperienze di gioco autonomo, quindi i bambini vengono trasportati a scuola nelle varie attività pomeridiane e non hanno più la possibilità di giocare liberamente con i propri coetanei, sono appunto ingabbiati in attività strutturate. Questo mi era capitato di sentirlo da indagini, in effetti sembra paradossale, ma in altre grandi, per esempio capitali, città europee, il giocare per strada nei giardini è molto più praticabile possibile che qui da noi. Noi riteniamo che appunto il gioco autonomo, il gioco libero abbia proprio un valore preventivo. Certo. No, poi commentando questo studio, io e Federico ci interrogavamo anche sul fatto che appunto i genitori italiani sono molto apprensivi, e il peso della cartella e il cibo che deve essere sempre a chilometro zero nella mensa, eccetera, eccetera. Dopodiché, insomma, gli altri paesi stanno molto meglio di noi, hanno gli zainetti uguali ai nostri e il cibo forse... Appunto, come dicevo prima, non è che lì i bambini crescano storti. No, no, infatti. È una questione culturale. Senta, avete dei dati anche sui dottorandi per caso? Se vanno da soli abbastanza lì o non vi siete spinti per paura in questo territorio? No, non ci siamo spinti. I dottorandi no, ma secondo me potrebbero esserci dei buoni risultati e delle buone sorprese sui licei, e gli istituti superiori. Sì, santo cielo. Ha ragione, ecco. Va bene, grazie Renzi, buon lavoro. Alla grazie prossima, a voi, arrivederci. Buon lavoro, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E in effetti attraverso una barriera di fuoco si vede il fuoco, non si può guardare. Sì, è molto difficile, tu stai parlando soprattutto nei casi di emergenza in cui appunto oltre quella barriera potrebbe esserci una persona da salvare, ecco. O un punto di uscita. Assolutamente qualcosa. Sì, diciamo che le tecniche finora a disposizione erano ad infrarossi, quindi si vedeva molto bene magari attraverso il fumo, ma attraverso le fiamme non era possibile. Nulla. Fino a quando un istituto del CNR non ha messo a appunto questa tecnica che si chiama olografia digitale, di cui adesso ci facciamo raccontare, per cui appunto è possibile ora guardare anche proprio attraverso le fiamme del fuoco. Qui con noi stasera c'è Massimiliano Locatelli, buonasera. Buonasera. Buonasera Locatelli. Che è appunto dell'istituto che dicevamo, dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze, che ha messo a punto questa tecnica che adesso lei ci deve raccontare. Sì, in realtà la tecnica è una tecnica nota, detta appunto olografia digitale. Beh, nota, che... scusi, tra gli esperti, ecco, magari tra il pubblico forse qualcosa ci deve dire. No, è certo. Sostanzialmente non è nient'altro che la rivisitazione in chiave digitale dell'olografia analogica. Beh, così non è chiarissimo, deve sciogliercelo. Si tratta di, noi abbiamo un oggetto, ci interessa vedere, lo irraggiamo con un fascio laser, uh-huh, e poi andiamo a registrare la figura di interferenza che si crea tra la luce che ritorna indietro dall'oggetto, diffusa all'indietro dall'oggetto, e un opportuno fascio di riferimento. E dal ritorno voi vedete, diciamo, che cosa ha attraversato, possiamo dire, sì, così? Sostanzialmente quello che registriamo noi è la figura di interferenza, quello che viene chiamato, che veniva chiamato in olografia analogica l'ologramma, che in questo caso è un ologramma digitale, che poi viene ricostruito per mezzo di un opportuno software, di un algoritmo. Ecco, per questo digitale. E voi avete pensato di utilizzare questa tecnica in questa situazione di emergenza, in cui c'è un incendio, quindi di vedere attraverso le fiamme appunto se c'è del movimento, se c'è una persona. Sì, in realtà c'è di più. Cioè, il discorso è che il nostro gruppo, che poi non è una collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Otta di Firenze e la sede di Napoli, sostanzialmente il nostro gruppo studia questa tecnica, però in un range, generalmente viene studiata nel visibile, noi lo studiamo nell'infrarosso, e questo, il fatto di utilizzare radiazione infrarossa ci dà alcuni vantaggi. Innanzitutto un campo di vista molto più grande e una minore sensibilità alle vibrazioni. Se poi si unisce queste due caratteristiche al fatto che è una tecnica lensless, cioè che non fa utilizzo di un obiettivo come nelle normali registrazioni video anche termografiche, si ottiene appunto questa possibilità di vedere attraverso un muro di fumo, ma anche di fiamme. Senta, noi è vero, da tanti anni conosciamo gli ologrammi, sono quelle figure di luce tridimensionale intorno ai quali ci si può anche muovere, sono create appunto da delle interferenze con raggi laser. Qui il dispositivo funziona perché questi raggi sono assolutamente in grado di passare il fuoco e di tornare indietro con un'immagine che ci sta dietro. E questo è il principio, ho detto in modo molto grezzo, ma per capirci? Esattamente, però mentre nel caso di una registrazione video standard o anche una registrazione termografica standard, davanti al sensore abbiamo l'obiettivo che forma un'immagine, sì, delle fiamme, sì, sul sensore, accecandolo, saturandolo. In questo caso, in olografia digitale, non c'è un obiettivo davanti al sensore, e questo fa sì che non ci sia saturazione, che non si accechi il sensore, si possa, sì, vedere quello che c'è al di là delle fiamme. Perché quindi, un raggio laser, le fiamme, insomma, sono nulla, le attraversa tranquillamente. Esatto, certo, esatto, certo, ho capito. E un ipotetico pompiere che cosa quindi avrebbe in mano? Degli occhiali, dei visori? Ovviamente questo qui, quello che noi abbiamo dimostrato, è una prova di fattibilità certo, di questa tecnica. Dopodiché il trasferire questa cosa nel mondo reale richiede uno sforzo ulteriore che è difficile prevedere e che noi stiamo già cercando di mettere in atto. Le prossime prove prevedono appunto un tentativo di riprodurre su campo una situazione ipotetica di soccorso e cercare di capire quali sono i limiti della nostra tecnica. Perché poi lì bisogna arrivare, no? Cioè, è lì che deve essere applicato. O ci sono anche altre applicazioni che non ci vengono in mente adesso a noi? Potrebbe essere un'applicazione anche in campo industriale per lo studio dei test di non distruttivi in condizioni appunto di fiamme, oppure anche in quei processi produttivi in cui sono presenti dei forni ad alta temperatura. Potrebbe, non avete bisogno solo di fiamme, avete bisogno di cose incandescenti, no? Quindi sì, tutto quello che in condizioni normali accecherebbe una normale videocamera, quindi anche un materiale incandescente, nel nostro caso non reca alcun disturbo. Quindi può avere applicazioni al di là del soccorso da parte, sì, dei vigili del fuoco. Esatto, anche appunto a livello industriale. Certo, l'applicazione più auspicabile è quella per il soccorso d'emergenza. E in questo contesto, insomma, l'innovazione l'abbiamo capita. Le tecniche che invece vengono utilizzate ora per districarsi in una situazione di emergenza in mezzo al fumo e alle fiamme, che cosa hanno a disposizione adesso i vigili? Alcuni, i centri più all'avanguardia, utilizzano delle termocamere per vedere appunto in condizioni di fumo, però non esiste niente che permetta di vedere oltre le fiamme, non esisteva, diciamo. Quindi un limite fortissimo, okay, all'intervento, certo. Sì, questo è sicuramente un passo notevole. Chiaramente l'applicazione è difficile prevedere quando potrà davvero essere resa Sì, perché lì bisognerebbe averla sul casco, insomma, dovrebbe essere un dispositivo. Sì, ovviamente in questo momento richiede l'utilizzo di un laser a CO2, è comunque un oggetto di grandi dimensioni, richiede diverse accortezze. Però, a differenza dell'olografia digitale invisibile, il nostro sistema non richiede, per esempio, la stabilizzazione del tavolo, che appunto proprio per questa minore sensibilità dell'infrarosso alle vibrazioni. Stabilizzazione del tavolo, del laboratorio. Cioè, questo esperimento ora è fatto ovviamente in laboratorio, però non ci sono quelle accortezze di stabilità che ci sono nel caso dell'olografia digitale nel visibile. Ok, cioè si può fare in movimento oppure in una situazione di emergenza. Per certi versi, insomma. Sì, cioè, noi riusciamo appunto a vedere scene dinamiche, a registrare scene dinamiche della dimensione umana e senza particolari accortezze, e quindi questo comunque fa ben sperare su una possibile applicazione. Scusi, una curiosità, potrebbe essere un'applicazione o un optional, se vogliamo chiamarlo così, da applicare anche ad esempio alle videocamere a circuito chiuso all'interno dei grossi spazi pubblici, le mense, le scuole, piuttosto che le metropolitane? Potrebbe essere applicato nelle videocamere? Sicuramente questa è una possibile applicazione, sì, una postazione fissa controllabile dal remoto che permette in caso di incendio di visualizzare e gestire la situazione al meglio. Certo, okay. Dove è importante sapere se ci sono persone in un punto piuttosto che in un altro dell'edificio. Esatto, certo, nel fronte a maggior rischio, ad esempio, dicevo, nei tunnel o nelle gallerie. Va bene, grazie Locatelli, buon lavoro, ci faccia sapere come va. Grazie a voi. Arrivederci. Abbiamo appena parlato di strumenti per vedere meglio, ma certo, vedere meglio è senza dubbio vedere. Partendo punto, da zero, sì, è appena arrivata una notizia chiara, quindi sì, noi la trattiamo un po' rapidamente. Anche e se poi Amedius, approfondiremo. Sì, ce ne siamo già occupati, ma questa volta sì, la notizia è buonissima, quindi dobbiamo assolutamente darla. È stata realizzata la prima retina artificiale dal nostro IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, e quindi assolutamente la notizia andava data. Qui per parlare di questo c'è il Guglielmo. Professor Guglielmo Lanzani. Buonasera. Sì, buonasera. Lei è docente e direttore del Centro per le Nanoscienze e le Tecnologie dell'IIT appunto di Genova, e insomma lei è uno dei fautori di questa buona notizia. Sì, sì, per precisione è una collaborazione tra il centro di Milano dentro il Politecnico di Milano e il Dipartimento di Neuroscienze sì, di Genova. Su che cosa si basa questa innovazione non da poco, insomma? Sì. Quello che abbiamo presentato è il seguente: abbiamo preso la retina di un ratto cieco che non vede la luce e l'abbiamo messa su un vetrino pulito, un semplice vetro, e poi invece sul nostro dispositivo, che consiste di un film polimerico che viene usato per le celle fotovoltaiche, per esempio, un polimero conduttore. Sì. Arrivando con la luce, misurando con elettrodo la risposta della retina, osserviamo che la retina cieca non dà segnale, mentre la retina cieca sopra il nostro polimero dà segnale. Quindi noi siamo riusciti a restituire la sensibilità alla luce a una retina cieca. Cioè voi avete creato artificialmente una sorta di filtro attraverso il quale riusciamo a percepire la luce e quindi sì, a vedere. Abbiamo sostituito con un polimero, un film polimerico artificiale, i fotorecettori danneggiati della retina. Ecco, questo è il primo passo. E adesso a che cosa puntate? Passo successivo è riprodurre l'esperimento in vivo su un animale che viene operato e in cui viene inserita una protesi. Per fare questo dobbiamo cambiare substrato, studiare la tecnica chirurgica, che non è semplice sull'occhio di un ratto, ma già abbiamo alcuni risultati promettenti. E poi il passo successivo, provare con una volta dimostrato il funzionamento in vivo e anche dimostrato che non è solo la sensibilità alla luce, ma è proprio una capacità di vedere che viene ripristinata, perché ovviamente le due cose non sono uguali, possiamo pensare di andare a animali superiori e poi all'uomo. Naturalmente noi sappiamo che l'immagine che poi ci raffiguriamo è un'elaborazione del cervello. Qui quello che si riuscirà a capire è se effettivamente mandando il segnale, per come l'avete ricostruito voi, tutto si rimette in moto esattamente come quando avviene in natura, senza apparecchiature. Noi speriamo molto nella plasticità del cervello che in tante situazioni, per esempio analoghe nelle protesi cocleari per l'orecchio, dimostra una enorme capacità di ricostruirsi un processo del segnale tale per cioè interpretare correttamente, certo, sicuramente sì, quello sì, che riceve, che non sarà uguale a quello che arriva da una retina naturale. Si riconfigura un po', magari i colori non saranno gli stessi, ma insomma vedere e non vedere sono due belle differenze. Va bene, davvero buon lavoro. Noi sicuramente daremo altro spazio alla notizia per parlare in maniera più approfondita. Intanto buon lavoro davvero. Grazie. Arrivederci, buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Tu, Chiara, non puoi vedere nemmeno in foto. No. Che cosa? La trippa. Non la posso neanche vedere, guarda. Raffaella Romiati, avete foto di trippa? Buonasera, non mi pare. Non in me. Benissimo, la posso partecipare anche allora all'esperimento. Allora può partecipare, perché lei solo se ne parliamo di trippa. Allora, Raffaella Romiati, ricercatrice in neuroscienze della SIS di Trieste. Buonasera e grazie di essere qui con noi. Ricercatrice in neuroscienze della SIS di Trieste. Allora, parliamo di foto di cibo, perché voi avete fatto un grande catalogo. Quante sono? Sono circa 900. 900 foto di cibo. Io le ho viste un po'. Non solo di cibo. Infatti, e poi adesso catalogato in maniera precisa, poi adesso ci racconterà. E questo è il punto. Allora, perché un centro di ricerca in neuroscienze costruisce questo catalogo? Le ragioni sono diverse. La prima è che abbiamo iniziato circa un annetto fa un progetto di ricerca interdisciplinare che si chiama Foodcast, qui alla SIS, che coinvolge sia neuroscienziati che fisici e matematici, e il nostro gruppo, quello del gruppo delle neuroscienze, ha cominciato ovviamente a pensare a quali esperimenti fare e a come muoversi. E la prima difficoltà che abbiamo trovato ovviamente non era la mancanza di idee, ma la mancanza di stimoli, stimoli sperimentali. E infatti abbiamo cominciato a chiedere, mandare qualche email a qualche collega, a qualche azienda che si occupa di cibo, e abbiamo ricevuto dei solenni rifiuti. A questo punto abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e di realizzare un nostro database. Un vostro database. Un archivio. Un archivio. Un archivio. Ecco, un archivio. Noi abbiamo letto nella vostra ricerca, mi pare di capire che il dato da cui partite è questo: il cibo è qualcosa che ci collega a un sacco di problemi psicologici, malattie, allergie, di tutto, comportamenti d'ogni genere. E però in fondo moltissimo, no, deve essere connesso a come lo vediamo, come lo percepiamo. Esatto. Allora, innanzitutto ci sono molte ragioni per cui si può e si deve studiare il cibo, ma diciamo che effettivamente sappiamo abbastanza poco di come il cervello lo elabora. Sappiamo poco di quali siano le strutture cerebrali coinvolte nella elaborazione e categorizzazione del cibo. In altre parole, sappiamo poco di ricerca di base sul cibo. E questo è il nostro lavoro. Però è anche vero che, appunto, siccome il cibo è trasversale e riguarda molte cose, la nostra ricerca di base dovrebbe avere anche un impatto importante, come ha detto lei, anche su un impatto su questioni cliniche e così via, anche di mercato. Noi abbiamo pensato di partire dagli stimoli, perché ovviamente un esperimento, oltre ad avere una buona idea, deve avere anche del materiale ben costruito. Così abbiamo fatto. E ci fa capire un po' con degli esempi che tipo di esperimenti fate vedere delle immagini, queste immagini che avete raccolto, come funziona? Mi sono accorta di non aver risposto alla domanda del perché le immagini. Allora, noi abbiamo pensato di usare le immagini perché è la condizione visiva, è la condizione più vicina alla realtà. Quando noi andiamo a fare la spesa o scegliamo il cibo, lo scegliamo guardandolo, no? Non siamo più non siamo nella giungla, non annusiamo, così via. Cioè, soprattutto guardiamo. Allora, ci è parso quindi la scelta più pragmatica, più sensata, quella di costruire del materiale visivo. E abbiamo scelto diverse tipologie di cibo e ho detto anche di non cibo, perché in realtà, appunto, volendo studiare anche delle differenze all'interno del cibo, dobbiamo comunque confrontare questa categoria con questi stimoli visivi con altri stimoli che con il cibo hanno poco che fare. Per cui abbiamo scelto immagini di, per esempio, utensili di cucina, ma però anche oggetti che con il cibo non c'entrano niente, gli animali, scene esterne, l'aeroporto piuttosto che altre scene del genere. Abbiamo chiesto a 86 soggetti italiani, di cui 48 donne, di valutare le figure che abbiamo presentato per una serie di variabili, diciamo così, di caratteristiche che noi riteniamo e che la letteratura finora ha indicato come importanti. Ma ad esempio, se ci danno... Per esempio, una variabile che è importante quando noi scegliamo il cibo è capire quale sia il suo contenuto calorico. Mm. Quindi noi abbiamo chiesto ai nostri soggetti sperimentali di misurare, di dare una misura della loro stima di contenuto calorico dell'immagine presentata. E la cosa straordinaria è che riusciamo a farlo, riusciamo a farlo anche per quelle tipologie di cibo che non sono buonissime per la nostra salute. Ma nel senso che verificate che la gente effettivamente attribuisce le calorie giuste ai vari cittadini? Sì, lo fanno, nel senso che siamo in grado di valutare, di stimare correttamente la quantità di calorie che un cibo contiene. Cercate anche di capire invece quanto piace una certa immagine piuttosto che un'altra? Anche questo, questa è un'altra delle dimensioni che abbiamo studiato, così come abbiamo studiato anche il tempo che ci vuole, la distanza che corre tra quell'immagine e il momento in cui lo potremo mangiare. Quindi abbiamo stimato, diciamo, la distanza dalla preparazione, dal momento in cui dalla preparazione al momento in cui possiamo effettivamente consumare quel cibo. Ci spieghi meglio questo, che non lo capiamo. Cioè se noi vediamo una mela o un piatto di pasta, esatto, la distanza dal poterla mangiare è molto breve, mentre invece se io le faccio vedere una bistecca ci vuole un pochino di più, e così via. Ah, per prepararla, le dice. Esatto. E c'è anche una differenza, diciamo, il tempo di preparazione. C'è anche una differenza di percezione, non so, di una pasta al pomodoro piuttosto che di una pasta al pesto, di una mela rossa piuttosto che una mela verde. Sì, fa piacere che lo abbiate colto. Abbiamo visto effettivamente che il colore ha un'influenza sulle nostre scelte alimentari. Sembra effettivamente che questo sia vero, e per esempio che il colore rosso sia più apprezzato in associazione al cibo che non in associazione ad altri ad altre tipologie di stimoli visivi. Ci sfuggiva però quando poco fa lei ha detto abbiamo messo dentro anche delle immagini di un aeroporto. Perché? Sì. Dei confronti, in che senso? Mi avete anche chiesto prima che tipo di esperimenti facciamo. Allora, come avete giustamente detto, questo è un database e abbiamo, diciamo, mettiamo a disposizione queste immagini che hanno dei valori, dei ratings che poi possono essere utilizzati per scegliere le tipologie di stimoli che servono per un dato esperimento. Allora, i nostri esperimenti, gli esperimenti che abbiamo pianificato, che non abbiamo ancora portato a termine e quindi pubblicato, riguardano processi di base, cioè noi vogliamo sapere quali, per esempio, sono le regioni cerebrali che sono associate con queste diverse caratteristiche, quindi ci aspettiamo di trovare ragionevolmente delle differenze tra diciamo le aree che sono implicate nell'elaborazione del cibo e le aree che sono implicate nell'elaborazione di scene esterne, nel senso che già differenze di questo tipo sono state osservate, per esempio nelle rappresentazioni, nelle attivazioni che sono associate all'elaborazione di immagini di animali e di immagini di piante. Quindi a maggior ragione noi pensiamo che il cibo possa essere trattato diversamente per esempio da scenari esterni. E le immagini che fate vedere sono sempre belle immagini, una bella fragola rossa, o avete anche, non so, l'immagine di una mela marcia? Abbiamo anche delle immagini di cibo avariato. Ecco, e lì capite, insomma, qual è la percezione del tester, dell'individuo che sta facendo l'esperimento, appunto in relazione ad un'immagine brutta, un'immagine negativa. Certo, esattamente. In conclusione, allora, voi avete costruito un database che dà un insieme di indicazioni, cibo per cibo e anche per situazioni al contorno, su come questa relazione tra guardare il cibo e il cibo stesso esiste. Dopodiché questo database è a disposizione di chi vuol fare ricerche, per esempio sull'anoressia, tanto per dirne una. Esattamente, per chiunque voglia fare ricerca ce ne può fare richiesta, il sito è segnato nell'articolo. Ah, ma lo mettiamo noi. / eccetera. Lo mettiamo sul nostro sito. Chiunque voglia può scriverci e noi diamo la possibilità di... Vabbè, a parte ci dica se c'è la trippa, così... Beh, sarebbe da aggiungere, questo è un bel esperimento, un po' come la mela marcia, no, scherzo. Abbiamo cercato di essere ecumenici e di non scegliere piatti tipici. Ah, tipici giusto, italiani, giusto. Certo, certo. Va bene, grazie, allora buon lavoro, grazie, ci faccia Rumiante. Sapere. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Federico, prima di dare la linea al traffico, dobbiamo ricordare una cosa importante. Stanno contribuendo alla ricostruzione del padiglione della Città della Scienza che, come sappiamo, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, sono stati distrutti dall'incendio doloso. Ecco, stanno contribuendo anche volti noti dello spettacolo e dello sport, da Edoardo Bennato, che appunto è originario proprio di Bagnoli, della zona della Città della Scienza, ma anche Fabio Cannavaro, che devolverà il ricavato della sua ultima partita di calcio, l'addio così sentito del calciatore napoletano, devolverà appunto il ricavato alla Città della Scienza. Noi per quel poco che possiamo fare continuiamo a ricordarvi i mezzi attraverso i quali potete contribuire alla ricostruzione. Fino al 31 marzo c'è la possibilità di utilizzare un numero, il numero solidale, il 45599 45599, e devolvere il valore di un SMS di un euro da qualsiasi numero di cellulare, da qualsiasi operatore, e di 2 euro invece per ogni chiamata fatta allo stesso numero, il 45599, da un numero di rete fissa. Sul nostro sito, inoltre, www.moebiusonline.eu, in home page trovate anche la pagina nella quale abbiamo messo tutti i riferimenti, tra cui il conto corrente corretto, attraverso il quale fare il versamento, anche di piccolissime somme. Questo è importante perché fino ad ora sono stati recuperati circa 86.000 euro solo grazie alla generosità di piccole donazioni di privati. Negli ultimi secondi invece voglio ricordarvi i contatti attraverso i quali potete comunicare con noi e mandarci suggerimenti, critiche, ma soprattutto le domande di scienza. Allora potete farlo via mail, moebius@radio24.it, tramite Facebook, ormai lo sapete, ci chiamiamo Moebius Scienza, e tramite Twitter, che siamo fortissimi, Moebius_, vale a dire trattino basso, online. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso Chiara Albicocco, che è qui, non la vedo ma è da vicino allo studio, e Paola Rebusco, che è molto più lontana perché è a Boston, loro due vi parlano di rane. Di rane, sì, frog in inglese. Sì, Federico, io e Paola Rebusco da Boston, ti parliamo proprio della rana dalla bocca larga. Oppure, Paola, dimmi se sbaglio, la rana dalla cova gastrica. Sì, il nome scientifico è Rheobatrachus tilus. E cosa fa questa rana pazzesca? Intanto ciao, come va lì a Boston? Bene, bene, c'è ancora freddo, ma la neve è quasi scomparsa. Bene, anche noi abbiamo avuto degli episodi questa settimana. Va bene, ma comunque veniamo a lei. La rana che dalla foto che tu mi hai mandato, abbastanza eloquente, è una rana con una bocca piuttosto larga e dei grossi occhioni, e dentro la bocca ha un piccolino, un ranocchietto. Sì, una rana bellissima, purtroppo però è estinta dall'inizio degli anni 80. Però ha una caratteristica molto particolare questa rana. Aveva un sistema di riproduzione completamente inusuale, per cui le femmine ingoiavano le uova fecondate e poi i girini crescevano nello stomaco e nascevano dalla bocca. Ma scusa Paola, com'è possibile? I succhi gastrici nello stomaco, cioè è una particolarità veramente rara, credo che nessun altro animale abbia questa caratteristica. Ma ci sono alcuni pesci che hanno questa caratteristica, e l'idea è che c'è una sostanza, la prostaglandina, che viene prodotta dalla rana e ricopre le uova proteggendole dai succhi gastrici. Ah, quindi le uova sono protette, quindi si possono sviluppare nello stomaco e poi escono dall'esofago, quindi dalla bocca? Sì, quando i girini diventano delle ranette, si arrampicano ed escono dalla bocca. Paola, questa rana è peculiare o è stata peculiare dal punto di vista riproduttivo, ma anche oggi fa parlare di sé perché è protagonista di un progetto, progetto Lazarus, che già il nome ci dice qualcosa, perché insomma i biologi, gli scienziati stanno cercando in qualche modo di riportarla in vita. Sì, stanno cercando di resuscitare questa fantastica rana, incredibile. Come? Il metodo si chiama trasferimento nucleare di cellule somatiche. E quello che la squadra di scienziati dell'Università del South Wales ha fatto, hanno preso una rana simile, che non è estinta, e hanno disattivato i nuclei delle uova di questa rana. Poi li hanno sostituiti con i nuclei della rana estinta. E tu dirai, da dove li hanno presi? Ecco. In realtà avevano delle cellule che erano state raccolte negli anni 70 ed erano state tenute in un freezer, in un normalissimo freezer, niente di sofisticato. Quindi hanno preso, prima che si estinguesse. Esatto, prima che si estinguesse. Hanno preso questi nuclei cellulari morti, li hanno inseriti nelle uova disattivate della rana che non è estinta, e poi le uova hanno iniziato a svilupparsi, a dividersi fino a diventare degli embrioni. Quindi diciamo che non è che l'hanno proprio ancora riportata all'antico splendore, voglio dire, non hanno ancora un individuo vero e proprio, ma diciamo che si stanno muovendo in questo senso. E questo progetto è molto importante perché ha un po' lo scopo di riportare in vita gli animali e le specie scomparse, tra cui specie importanti come il dodo, la tigre tasmaniana, il dodo, il mammut, il macaco cubano. Oltre al fatto poi di capire come diciamo riportare in vita queste specie, poi c'è anche tutta una discussione su come reintrodurle nell'ambiente senza creare ulteriori danni una volta che sono reintrodotte. Qualche tempo fa infatti aveva fatto discutere la ricerca giapponese che era volta a riportare in vita il mammut. Allora c'eravamo interrogati anche con gli evoluzionisti se appunto qualora lo avessimo riportato in vita dove lo mettevamo, come lo facevamo vivere e quale ambiente avrebbe colonizzato, insomma. Comunque consiglio a tutti intanto di guardare una fotografia di questa rana e speriamo di vederne di più nel futuro. Allora ripetici il nome scientifico. Allora il nome scientifico è Rheobatrachus ilus. Grazie mille Paola. Buona serata. Ciao. Una settimana fa, nella trasmissione del mattino, 24 mattino si chiama quella condotta da Alessandro Milan, un ascoltatore che si dichiarava abbastanza informato di cose tecniche, parlando degli F-35, questi super caccia che negli ultimi tempi sono al centro anche di molto dibattito politico, diceva che i piloti di questo aereo indossano un casco che è del valore di circa 2 milioni di dollari. Non entriamo nel discorso su F-35 sì, F-35 no, è troppo complicato. Certo, effettivamente adesso Canada, Australia, Turchia, Olanda hanno già detto che si ritirano dalle commesse che avevano ordinato. Va bene, ma questo lo lasciamo fuori. Con Marco Mezzalama. Buonasera Mezzalama. Buonasera. Docente di sistemi di elaborazione al Politecnico di Torino. Cerchiamo di descrivere il perché un oggetto di questo genere può avere quel valore. E intanto va bene, dobbiamo tenere presente che certo non sono oggetti stampati in milioni di copie, però questi in realtà sì, sono molto lontani da essere dei semplici caschi, no? Sì, in effetti noi li chiamiamo caschi, ma potremmo dire che sono una protuberanza dei nostri sensi e del nostro cervello, che hanno in qualche maniera perso la funzione fondamentale di difesa della nostra testa, perché questi caschi, al di là poi del valore che è stato stimato, su cui bisognerebbe fare disquisizioni diverse, questi caschi sono in effetti un agglomerato di sensori elettronici, di sistemi di elaborazione, di sistemi trasmissivi che permettono di raccogliere su un artefatto che è posizionato su una parte del corpo, la testa, tutta una serie di funzioni estremamente sofisticate che in qualche modo potrebbero essere definite come tutta l'elettronica di controllo di un aereo è portata su questi caschi. In più hanno tutti gli effetti di gestione uomo-macchina, quindi di interfaccia tra l'utente che è il pilota e i sistemi di controllo, che è fatta in maniera estremamente sofisticata e poco invasiva. Possiamo parlare, come dire, della proiezione delle immagini direttamente sulla retina dell'occhio. Quindi sono oggetti estremamente sofisticati. Ecco Mezzanama, lei ha citato una cosa che le voglio che lei la descriva meglio. In pratica questi caschi proiettano il cruscotto dell'aereo direttamente dentro gli occhi del pilota, cioè non c'è più il pilota che deve andare a cercare i dati e i numeri su un oggetto che ha davanti, che è il cruscotto, gli vengono proiettati direttamente nel cervello a questo punto, no? E quindi c'è un vantaggio, intanto anche forse di affaticamamento minore? Ma innanzitutto teniamo presente che il numero di display che tengono sotto controllo la maggior parte dei sistemi di un aereo, ma questo vale anche per una Formula 1, sono cresciuti largamente nel tempo e quindi sono molteplici. Seguirli tutti con l'occhio, se sono a noi esterni, risulta essere estremamente complicato. Ricordiamoci, tanto per fare un paragone che non ha ambiti militari, che tutti i comandi di una Formula 1 sono adesso posizionati sul volante. Sul volante, certo, no? Certo. Mentre una volta, se ci ricordiamo, le Formule 1 di Fangio, no, erano invece posizionati sul cruscotto. Sul questo cruscotto. Perché? Perché sono talmente tanti da tenere sotto controllo che devono essere, tra virgolette, a vista. Certo, immediata. Certo. Non solo devono essere a vista immediata, ma con le tecnologie che adesso vi sono possono essere portati direttamente, diciamo, tra virgolette, dentro l'occhio. Quindi non ho bisogno di spostare la testa, no, per vedere, mi arriva tutto lì. Non solo, ma poi l'elaboratore, in funzione dei diversi elementi, sceglie quello più rappresentativo, quindi c'è un'elaborazione dei diversi display, cioè non è soltanto, come dire, un trasferimento visuale da un pannello all'occhio, ma c'è anche un'elaborazione dei dati per definire le priorità e quant'altro. Ecco, ma questo Mezzanama, anche perché questo non solo nei caccia da combattimento, ma anche negli aerei di linea, c'è tutta un'attività via computer nella gestione del volo che fornisce al pilota dei dati che servono certamente ad avere un quadro del volo, ma forniscono anche dei dati, come dire, di un volo che è anche gestito autonomamente. Insomma, il pilota non deve intervenire continuamente, però deve avere sotto controllo la situazione. Ecco, ma direi che proprio quello che lei dice è il punto cruciale, cioè un aereo moderno, soprattutto un aereo da caccia o comunque un aereo di alte prestazioni, è fondamentalmente guidato dagli elaboratori. Certo. Quindi l'uomo interviene soltanto in alcune limitate decisioni cruciali o in situazioni di emergenza, ma addirittura in certe situazioni di grande emergenza viene delegato il tutto, come si suol dire, al pilota automatico, che nel caso di aerei evoluti è un pilota estremamente sofisticato. D'altra parte, teniamo presente che quello che si è parlato in questi giorni di droni. I droni sono, come dire, degli aerei autonomi in toto, che quindi sono guidati soltanto a distanza da un uomo, ma che svolgono una serie di funzioni, una volta ricevuti dei comandi, nel modo completamente più autonomo possibile. Certo, i droni hanno un'autonomia tale da poter agire a 6.000 chilometri di distanza, se non di più, da chi li governa, ma si vede che statisticamente si è capito che un aereo governato da sistemi automatici ha più, come dire, sicurezza nel volo di qualcosa che invece, probabilmente con quelle prestazioni di queste macchine, potrebbe sviluppare un pilota, un umano. Sì, anche perché ci sono dei tempi di reazione troppo corti. Cioè, molti velivoli militari viaggiano di fatto in situazione di instabilità e quindi di stallo permanente, per poter avere delle evoluzioni come quelle che noi vediamo nei film, per poter salire improvvisamente, schivare degli attacchi. Questa capacità di reazione non è sostanzialmente compatibile con i tempi di reazione umani. Lei citava un termine, in stallo permanente. Lo stallo è quella condizione nella quale un aereo non ha più presa praticamente, esatto, sull'aria. Però in quella posizione, se riesce a stare una frazione di secondo, un secondo, e poi recuperare, ok, ne esce. Però allora ci vuole una macchina, ci vuole un computer che gestisca, esatto, questo. Ci vuole, perché lì è un problema, come dire, proprio di risposta. Certo. Cioè, lei deve muovere i vari flap piuttosto che i vari razzetti di direzione in un tempo che sono dell'ordine dei millisecondi, no, che non sono compatibili con la capacità di decisione del cervello umano. Marco Bezzalama, grazie. Mi pare che siamo riusciti a spiegare perché questi caschi, che non sono caschi, certo, possono avere costi estremamente, sì, questo, elevati. Se posso concludere, fa parte di tutta una serie di rivoluzioni che in questo momento ci sono nella cosiddetta guerra elettronica. Sì. Il soldato bionico, il soldato elettronico, al di là del casco, ha tutta una serie di strumenti che in qualche modo sono estremamente raffinati e quindi, essendo sulla frontiera tecnologica, di avanguardia. Certo, vabbè, poi dopo cerchiamo tutti di creare una situazione per cui questi caschi si usino solo nei videogiochi. Questo sono molto d'accordo. Diamoci dentro. Grazie Mezzanama. Prego, e buon lavoro. L'ora è passata, fra 7 giorni qui vi racconteremo altre storie di scienza e tecnologia. Questo è Mebius, buona settimana a tutti e a tutte.